Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Tu cuoque. Tremonti sdogana i corvi, un capolavoro tattico. Dopo le accuse da imperi a imperiali, ci voleva l'anno terribile di Giulietto a liberare il volo di stime non pessimistiche ma semplicemente reali. Quale lampo di saggia rude praticità! Intervenne a gamba tesa ma correttissima sui fanghi di periferia della reale economia, lontano dalle verità di circostanza ovattate e drappate dalle conferenze stampa. Il riscatto dei corvi, anima cupa per gli spenti, con buona pace di, in ordine cronologico, Poe, Paolazzi, Bernanke, Visco, JP Morgan, Obama e chi più ne ha più ne metta. Il bello è che non c'entra nulla il pessimismo, anzi, vorrebbe essere uno stimolo scattante, ottimista e volitivo, molto premier style, assai sportivo, per reagire alla crisi, anticiparla, spiazzarla e magari schiaffeggiarla con un po' di coraggio. Francesca. Caro direttore Fabi, leggo che il Newsweek raccoglie gli appelli di Obama e invita gli americani, estendendolo a livello globale, a riprendere i consumi, ad avere fiducia e coraggio, ad essere ottimisti e a credere che potendo ancora spendere, questo è il momento di fare anche affari e che la ripresa dell'economia dipenderà proprio dalla ripresa dei consumi dei cittadini. Beh, è da mesi che Berlusconi insiste su questo argomento e viene regolarmente schernito e criticato da una sinistra che ha un unico scopo: farlo apparire un incosciente che non capisce la gravità della situazione e si fa quasi beffa delle difficoltà della gente. Questa invece è veramente la chiave per risalire la china, non è difficile da capire. L'eccessiva prudenza, la paura del domani, l'insicurezza sono inevitabili in questo periodo, ma dobbiamo, tutti quanti ancora abbiamo un lavoro e non risentiamo che psicologicamente di questa crisi, fare uno sforzo per far girare l'economia, per far sì che tante aziende possano sopravvivere insieme ai loro dipendenti. Se quello che da tempo si sforza di far capire il nostro Presidente del Consiglio è stato ridicolizzato da una certa parte politica, chissà ora che lo dice Obama se avrà un altro valore e sarà preso a modello di comportamento. Essere ottimisti deve diventare quasi un dovere. Tutti, chi più e chi meno, dobbiamo aiutare e aiutarci a superare questa difficile fase della nostra storia e ne usciremo vincitori. Dobbiamo farcela, se vogliamo il bene dei nostri figli. Giulia. Egregio direttore, sentiamo sempre più spesso numeri e percentuali che ci vengono quasi gettati addosso, ad una frequenza che impedisce di trovare il tempo adeguato per anche il minimo ragionamento. Allora provo a chiedere a voi che siete gli esperti del settore alcune semplici domande. Il piano per la ripresa economica degli Stati Uniti prevede investimenti dello Stato per 700-800 miliardi di dollari, ma credo di aver perso il conto e in realtà ci sia anche un piano bis che ne prevede altrettanti. Ma se il deficit degli Stati Uniti ammonta a quasi 10.000 miliardi di dollari, non mi tornano i conti. Chi fornisce i soldi allo Stato? Sono i soliti contribuenti che comprano i titoli di Stato oppure le banche, sull'orlo del fallimento, che prestano denaro ad uno Stato sull'orlo del fallimento? Ma chi presta i soldi allora a tutti? Topo Gigio? Mercato dell'auto. Si scrive che le vendite sono diminuite e di molto. Si parla di riduzioni del 30, 40, 50% delle vendite e si discute sul modo in cui salvare il mercato dell'auto. Ma non le sembra che forse, almeno in Occidente, il mercato sia saturo e di questo si dovrebbe discutere? Voglio dire, ormai quasi tutti hanno un'auto e il mercato si porta ad un suo equilibrio che dipende semplicemente dalla durata media di un'automobile, in assenza di altre variabili. I nostri manager e politici sono capaci di giocare solo su una di queste variabili, e cioè l'incentivo statale legato all'inquinamento. Cioè, ancora il contribuente paga tasse per produrre più auto e fortuna che non si parla ancora di dare la patente ai bambini. Il mercato dell'auto è dopato da tempo con gli incentivi statali e sarebbe ormai venuto il momento di smetterla e lasciarlo stabilizzare. Forse, facendo così, si riuscirebbero veramente ad ottenere dei cambiamenti epocali, soprattutto in termini di inquinamento. Infatti, le imprese sarebbero realmente portate a cercare soluzioni innovative e non a giocare sul grammo di CO2 emessa. Lettera firmata. Cara Radio 24, sono una vostra fan e corrispondente. Peccato che per sentirle le lettere debba mettere la sveglia alle 6 e peccato che ne rileggiate solo una alle 18:30. Sono lettere molto interessanti e sarebbe opportuno rileggerle tutte per amplificare la voce che spesso è un grido di dolore di tutti noi oscuri cittadini avviliti da una realtà sempre più deprimente e degradante. I problemi sono infiniti, si accavallano, si sovrappongono in una specie di spirale infernale e la crisi, come un vento maligno, soffia accelerando e infiammando la girandola. Ci salveremo o è l'inizio della fine? Temo che chi detiene il potere non si renda conto della pentola a pressione che sta gestendo. La crescente disparità sociale, grande ricchezza e grande povertà, la disperazione degli italiani disoccupati e l'invasione dei migranti ancora più disperati, la violenza dilagante e crescente, l'inarrestabile inquinamento. Manca la miccia per fare il botto. E intanto, come la regina di Francia offrì le brioche al popolo affamato, il cavaliere dal suo dorato Olimpo distribuisce soldi, i nostri soldi, all'estero e propone opere mega galattiche. Non recepisce l'implosione del suo mondo, dei suoi ideali fatti di consumismo sfrenato, tecnologia esasperata e liberalismo ad oltranza. È da questo mix che è scaturita l'attuale crisi mondiale. Doveva succedere perché non si può continuare all'infinito con le auto che ci stanno avvelenando, con le autostrade sempre più larghe e insufficienti, col mito della velocità ad ogni costo e tutto il resto. Il problema più grave, quello che potrebbe innescare la miccia, è, secondo me, l'invasione continua e inarrestabile dei migranti. Penso che anche qui si sia toccata la saturazione e che per questo finirà male. Bisognerebbe inventarsi qualcosa. L'ONU, la CE o chi per loro potrebbero cercare nel pianeta dei luoghi incolti e disabitati dove indirizzare i disperati che scappano dai loro paesi per guerra e per fame. È gente che non ha potuto evolvere normalmente per il colonialismo, per la religione, per l'ambiente ostile, per i dittatori e dovrebbe cominciare una vita nuova per ricostruirsi, per salire i gradini della normale evoluzione. Si dovrebbe riproporre il modello pioneristico in versione riveduta e corretta. Le organizzazioni mondiali, recepiti i siti, dovrebbero fornire il minimo vitale e avviare i disperati verso un progetto di vita che potrebbe educarli e salvarli. È inutile rimandarli nel loro paese, rimbalzerebbero come palle da ping pong. Silvia. La proposta di liberalizzazione dell'edilizia annunciata dal presidente Berlusconi rischierebbe di compromettere in maniera definitiva il territorio. Questa è la tesi sostenuta da tre importanti architetti italiani, Gae Aulenti, Massimiliano Fuxas e Vittorio Gregotti, in un appello pubblicato in prima pagina dal quotidiano La Repubblica. Questa affermazione ha suscitato in me una prima istintiva domanda. Ma fino ad oggi l'edilizia non liberalizzata ha forse preservato e valorizzato il territorio? L'elefantiaco apparato di norme, vincoli, procedure, piani ha forse consentito uno sviluppo equilibrato e qualitativamente alto del costruito in Italia? Ha forse impedito l'abusivismo e il degrado? Le pseudo proposte del piano casa annunciate dal governo hanno dato il via, come spesso succede, ai massimalismi più spinti. Si tratta di un piano straordinario che salverà il paese dalla crisi economica e renderà tutte le famiglie più felici con un bagno in più ed una cameretta nuova? Oppure siamo di fronte all'annuncio di una catastrofe epocale e all'arrivo di una massiccia cementificazione della nostra bella Italia? Prima di tutto non si capisce bene di cosa stiamo parlando. Annunciare semplicemente che saranno possibili aumenti di cubatura del 20 o del 30% può voler dire tutto e niente. Sembra però evidente che tutto ciò non abbia nulla a che fare con il piano casa, il cui scopo prioritario è quello di offrire risposte all'emergenza abitativa, che per chi non lo sapesse, in Italia esiste ed è grave. Centinaia di migliaia sono le domande inevase di edilizia sociale pubblica, la cui produzione in Italia è andata progressivamente calando negli anni. Anche la percentuale altissima di proprietari di case che si registra nel nostro paese è da valutare come un elemento patologico più che come una grande risorsa, perché ha reso il mercato dell'affitto un mercato di nicchia con tutte le conseguenze del caso. Il limitatissimo numero di case per l'affitto rende difficile la mobilità dei lavoratori, l'indipendenza dei giovani e delle giovani coppie, l'integrazione degli immigrati, eccetera, eccetera. Non credo che sia un processo virtuoso il fatto che in Italia l'unica risposta al problema casa sia l'acquisto con relativo mutuo. Il paradosso a cui abbiamo assistito in questi anni è stato che mentre cresceva il boom edilizio, contemporaneamente cresceva l'emergenza abitativa. Dunque, se si parla di piano casa, si deve parlare di edilizia, di ampliamento del mercato dell'affitto, di edilizia pubblica e si deve parlare di risorse economiche destinate a tutto ciò. Sembra poi di capire che il provvedimento del governo punti ad una semplificazione e velocizzazione delle procedure urbanistico-edilizie. Evviva! Non abbiamo sempre sostenuto che in Italia i progetti nascono vecchi perché i tempi della burocrazia sono elefantiaci, perché è assurdo dover aspettare una media di 3 anni per ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni per realizzare un intervento edilizio? Ma per rendere le procedure veloci occorre prima di tutto avere regole certe e chiare. In Italia invece l'apparato di leggi, leggine, regolamenti che governano le trasformazioni del territorio è farraginoso, contraddittorio, spesso talmente oscuro da essere affidato all'assoluta ed unica discrezionalità interpretativa del pubblico funzionario. Quindi, se si vuole rendere l'iter più veloce, non basta la perizia giurata. Occorre, per esempio, cambiare il testo unico per l'edilizia, omogeneizzare e semplificare i regolamenti edilizi, unificare le normative tecniche. Lettera firmata. Sono convinto che le misure del governo in merito alle ristrutturazioni siano assolutamente giuste e la contestazione che l'Italia è piena di cantieri fermi non regge. Sono fermi i cantieri delle nuove lottizzazioni, quelli delle imprese che costruiscono palazzi su palazzi e oggi si ritrovano con il mercato fermo. Ma si tratta di cantieri di case nuove. La proposta di Berlusconi si rivolge alle ristrutturazioni singole, quindi agli artigiani e alle imprese che lavorano con il privato, con le singole ristrutturazioni, non con chi fa le grandi lottizzazioni. La proposta serve alle famiglie che hanno migliaia e migliaia di piccole esigenze, non risolvibili con i grandi piani regolatori. Non è la panacea di tutti i mali, ma sicuramente serve. Serve quantomeno a tutte le piccole imprese, che sono tantissime. Quelli che criticano stanno sempre lì ad aspettare la presa del palazzo d'inverno per la palingenesi. Fabio. Gli uomini propongono che siano le donne a pagare la crisi. Dai tempi di Adamo ed Eva non sono forse il capro espiatorio più a buon mercato? E allora tutte in pensione a 65 anni e ringraziamo per l'opportunità che ci viene data. Lo fanno per non farci sentire emarginate. Mannaggia, sono decenni che chiediamo più collaborazione in casa, asili nido, scuole a tempo pieno, pari opportunità nel lavoro, protezione dai soprusi, leggi contro la violenza e ci hanno sempre risposto picche. E ora arrivano con questo regalo non richiesto, come se ci dicessero: non vi abbiamo dato quello che chiedevate? Beh, accontentatevi di quello che c'è. Ma io vorrei chiedere a tutti gli uomini: dove siete quando la vostra donna prende la pillola, mette la spirale o si mette a fare i conti mentre voi pensate solo a godervela? Dove sono i tanti tromboni quando viviamo l'angoscia di una possibile o certa gravidanza indesiderata? Dove sono gli economisti quando dobbiamo scegliere tra il desiderio di un figlio e la possibilità di un lavoro? Dov'è Brunetta quando una maternità ci fa perdere un avanzamento di carriera? Dov'è l'Unione Europea quando un uomo ci minaccia, perseguita, picchia, violenta? Ci chiedete di essere brave lavoratrici, brave mogli, brave madri, brave cittadine. E quando i figli finalmente sono cresciuti, non ci chiedete forse di occuparci degli anziani genitori? E non è forse vero che i figli progettano di riconvertirci in babysitter prima ancora che noi stesse pensiamo alla pensione? Maledetto vizio di voi uomini, volere la botte piena e la moglie ubriaca, sì, ubriaca, di fatica. Ci hanno preparato un bel regalino per l'8 marzo, non c'è che dire. Forse è per questo che sono così allergica alle feste. Non si sa mai che regalo ti può arrivare. Silvia. Cara Silvia, il tema dell'età di pensionamento e della parificazione tra uomini e donne ha sollevato negli ultimi mesi un'ondata di polemiche. E questo è un classico caso in cui hanno ragione tutti. Ha ragione l'Unione Europea quando chiede all'Italia di parificare l'età pensionabile. Hanno ragione le donne quando sottolineano che gli impegni personali e familiari giustificano ampiamente la diversità di trattamento pensionistico. Ha ragione il governo cercando una mediazione sulla strada della gradualità. E allora è forse necessario dire che in casi come questo qualsiasi soluzione rigida e obbligatoria è per sua natura sbagliata. Anche perché, al contrario di quanto avviene in Italia, il sistema pensionistico dovrebbe essere il più possibile flessibile e individuale, non solo per le donne, ma per tutti. Flessibile perché il sistema dovrebbe offrire garanzie e non imporre obblighi, soprattutto sull'età. Dovrebbe essere un sistema che riconosce le diversità, che sappia proteggere e valorizzare le esperienze familiari, che dia il giusto valore alla maternità e alla cura dei figli. E allora, in conclusione, quello dell'età pensionabile è un falso problema, perché già ora le donne possono, se vogliono, stare al lavoro fino a 65 anni e oltre, così come gli uomini, perché se vanno in pensione prima hanno trattamenti economici inferiori, perché la parificazione dovrebbe passare prima dai diritti che dai doveri. E allora, cara Silvia, abbia fiducia. Gli uomini saranno pure egoisti e prepotenti, ma sono anche capaci di grandi gesti d'amore. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.